Ciao a tutte, tutti e tutte. Siamo contentissime di avervi qui oggi a questa seconda edizione del Piccolo Salone del Libro Politico. Seconda edizione perché questo Salone del Libro Politico nasce qui in Cox 18 nella sua prima edizione lo scorso anno. Tra l'altro grazie anche a Tiziana Villani che abbiamo qui con noi, che è stata una delle prime ideatrici e propositrici di questo incontro. Dopo la prima edizione dello scorso anno, che è stata per noi molto arricchente, è stata un successo, abbiamo deciso di riproporre una seconda edizione quest'anno e l'abbiamo intitolata Le parole per farla. Utopie e orizzonti nella catastrofe del presente. Perché questo titolo? Diciamo che nel pensare, nel ragionare su quali temi proporre per questa seconda edizione, non siamo potuti che partire dalla fredda considerazione che a un anno di distanza il mondo non è cambiato se non in peggio, e che se da una parte guerre e stermini e genocidi sono sempre più atroci e non accennano a placarsi, dall'altra i sempre più profondi conflitti sociali sono silenziati e repressi. E allora ci siamo interrogati sul ruolo che l'editoria può avere all'interno di questo presente, di questa catastrofe, e ci siamo immaginati di parlare sì di questa catastrofe, della guerra, della situazione del presente, ma di farlo con un'ottica propositiva, quindi di chiederci quali sono i linguaggi e le pratiche che noi, come Centro Sociale Cox 18, come militanti, ma anche noi come case editrici qui presenti, possiamo mettere in atto per opporci a questa narrazione delle cose del presente. Siamo partiti proprio dalla questione del linguaggio, che poi lascerò spiegare perché sarà al centro di questa prima tavola rotonda, però che dà anche un po' il titolo, no? A tutta l'edizione in sé, perché ci siamo chiesti quali sono i linguaggi che possiamo mettere in campo. Quali sono i linguaggi per opporci alla narrazione sempre più pervasiva di questo presente, dove alcune parole sono entrate in maniera disastrosa, entrate a far parte del nostro lessico comune, parole come riarmo, parole come definizione legale di donna, parole come controllo dei saperi, nuove parole che sono entrate nel linguaggio comune e che ci troviamo ad utilizzare. E quindi ci siamo chiesti, quindi noi quali sono le parole che noi possiamo mettere in campo e qual è il ruolo poi dell'editoria nel fare questo. Quindi ci siamo immaginati quest'anno di chiamare le case editrici in primis, non solo, che è già una grande cosa, a venire con i loro banchetti e a proporre i loro cataloghi, le loro proposte editoriali, comunque tutte le case editrici che noi invitiamo sono tutte case editrici indipendenti, militanti, o che in qualche modo hanno sempre messo al centro dei loro cataloghi una certa narrazione, una certa critica del presente. E quindi pensiamo che un dialogo con le case editrici, che non siano solo portatrici dei loro saperi stampati, ma perché possano proprio venire, mettersi in campo e dialogare insieme a noi per cercare di capire quali possono essere le strategie, sia nei linguaggi che poi nelle pratiche, in che modo l'editoria può essere una forma di militanza, di proposizione di nuovi linguaggi. Ieri sera, tra l'altro, abbiamo lanciato questa seconda edizione invece con una performance, che era anche questo un esperimento, con la nostra Camilla Violante Scheller, che è qui anche noi, con noi anche oggi, ci fa molto piacere averla, e che anche quello era un tentativo di mischiare dei linguaggi diversi, mi dicono che sto parlando troppo, dei linguaggi diversi, di proporre anche il linguaggio del corpo, della musica e il linguaggio performativo, anche proprio per chiederci che fare in questo mondo di fronte al disastro. E niente, quindi smetto di parlare e lascio la parola alla mia amica e compagna Carlotta, che presenterà poi la prima tavola rotonda e le prime domande di questo filo conduttore. Ok, allora, la prima tavola rotonda che teniamo oggi ha come titolo L'utopia delle parole, quali nuovi linguaggi per opporci alla narrazione del presente. Allora, è appunto una tavola rotonda che prova a ragionare insieme alle case editrici su come la lingua, in particolare ovviamente quella scritta, possa essere un terreno di lotta, quindi un argine contro il dilagare di un linguaggio repressivo e omologante, e anche un luogo dove trovare le parole che ci possono aiutare a resistere e a desiderare immaginare nuovi mondi e nuovi scenari possibili e diversi, alternativi. Quindi questa è un po' la consegna, la macro domanda che andremo a chiedere alle case editrici. Ne parliamo in particolare con, faccio un po' random, con Eterotopia France e Mille Piani. Tiziana, alza la mano, così ti vedono tutti, perfetto. Momo, editore. Eris, Eleutera e di editore. Ci sarebbe dovuta essere anche Magmata, ma sono un po' in ritardo. Infatti, da Napoli arriveranno. Arriveranno, il banco è vuoto, ma sarà presto riempito. Questa sedia rimane vuota invece. Allora, dico due cose giusto per introdurre un po' il tema e fare poi una domanda un pochino più specifica alle case editrici. Siamo abituati nel linguaggio, nel discorso pubblico comune dei media e del discorso politico a sentire molto spesso parole violente, discriminatorie, un lessico che si sta sempre più allargando e diventa sempre più diffuso. Dall'altra parte ci sono anche parole che passano quasi inosservate, possono sembrare apparentemente innocue, ma che in realtà lasciano ben intuire la violenza delle azioni che sottendono, diciamo, che a cui fanno riferimento. Sono parole, faccio qualche esempio proprio brevissimo, sono parole che possono, ad esempio, non so, sono concetti molto binari come può essere quello di legale, illegale, buono, cattivo, che nel definire così bene i concetti e i campi in realtà portano a una separazione delle esperienze e delle persone e tracciano confini e innalzano barriere. Altre parole invece sembrano nuove, sembrano coniate di fresco, ad esempio remigrazione o rigenerazione urbana, ma in realtà nascondono delle pratiche molto vecchie e molto note e molto negative e che conosciamo. Diciamo che è importante riconoscere entrambe queste parole, sia quelle violente sia quelle meno violente, perché appunto il potere spesso comincia a parlare attraverso parole ambigue o confuse o appunto apparentemente innocue, solamente per poi introdurre invece un lessico sempre più violento e omologante anche e repressivo, che poi lascia spazio a delle pratiche, quindi è un degradare delle cose. Ovviamente fa parte appunto di una strategia politica che porta alla normalizzazione alla fine di questo tipo di lessico e di pratiche. Noi qui con le case editrici cerchiamo invece di trovare un'alternativa a questo lessico, quindi ci domandiamo nel voler rifiutarsi di utilizzare un linguaggio, un lessico capitalista, qual è il linguaggio che possa dare degli strumenti e anche degli esempi nella pubblicazione di libri, nella pratica editoriale, per invece liberare il linguaggio da questo campo molto stretto e opprimente che il conformismo anche mediatico e linguistico gli sta un po' imponendo e che gli sta sempre più stretto. Quindi, venendo un po' alle domande, ci interessava sapere anche la vostra opinione, le vostre storie, le vostre esperienze rispetto appunto al fatto di intendere il linguaggio e la lingua come un terreno di lotta, e quindi quali pratiche di liberazione come case editrici, magari nel rapporto con gli editori o nel processo di pubblicazione, avete affinato, avete messo in campo, e quali parole volete diffondere, come intendete anche esprimerle, come le selezionate, e quali sono anche le caratteristiche di un linguaggio, quello che selezionate, che sia libertario, antiautoritario, antimilitarista, come poi anche l'esperienza e la vita che ci auguriamo e che vogliamo diffondere attraverso queste parole. Non so se sono stata chiara, se avete delle domande, eccetera. La cosa che vi ricordo molto importante è di stare ognuno nei 10 minuti di intervento. Se possibile, ve lo segnaleremo, se sforerete, come forse io sto facendo. C'è qualcuno che vuole cominciare? Io non chiamo. No. Sei contentissima. Ok, mi hanno fregata. Merda. La parola che scelgo è merda. È una domanda ampissima e molto complicata. Io sono Matilde di Ieris, una insomma delle persone che ha fondato la casa editrice e se la porta in giro da più o meno 15 anni. In questi 15 anni abbiamo visto un sacco di cambiamenti legati al linguaggio e alle parole. Ce ne sono alcuni più, chiamiamoli pop, che sono stati più facilmente svuotati di significato e incorporati, no? Dalle varie istituzioni culturali. Come dire, vediamo festival assolutamente patriarcali, capitalisti, sessisti, omo-lesbo-bitransfobici che usano la schwa, giusto per fare un esempio, no? Come dire, ci sono delle istanze che è facile prendere un qualcosa di semplice e svuotarlo ovviamente del significato che ha. Quindi forse partirei da questo, nel senso che il tentativo è quello di riuscire a portare avanti delle parole nel loro significato reale e concreto, no? Il mondo è pieno, per dire, di femministe bianche della classe media che parlano di intersezionalità, ops, esattamente come anche in luoghi non sospetti è facile ritrovare atteggiamenti razzisti, coloniali, e è facile come dire, parlare delle grandi tematiche del momento ma poi nel proprio privato non riuscire a metterle in pratica. E questo forse è un po' il tilt di questi anni, no? Dove esiste una grande comunicazione, un grande focus sull'importanza delle parole, ma queste parole vengono spesso svuotate dalle pratiche che in realtà dovrebbero comportare, dal farci essere realmente in modo concreto persone alleate nei vari ambiti. Questo per fare un quadro. Quindi io credo che la vera sfida dell'editoria militante, di movimento, che comunque in qualche modo è legata a queste istanze dal basso, sia creare dei reali spazi editoriali che non siano soltanto un qualcosa di naif, per cui si fa l'incontro, che mi immagino, che ne so, gli organizzatori delle fiere che spuntano, dicono: ah sì, ok, abbiamo fatto una cosa friendly per questa comunità, spunta, fatta. Ma riuscire a portare anche in questi contesti la realtà e la praticità e la concretezza delle parole che scegliamo di adottare, proprio per creare reali e concreti spazi di, intanto editoriali attraverso quello che pubblichiamo, ma poi di discussione. Una delle altre problematiche è la risignificazione di queste parole. Io, tra l'altro, noi non siamo una casa editrice che fa solo saggistica, so che sono in minoranza in questo mondo, ma crediamo che leggere solo saggistica gente faccia malissimo alla salute. È molto importante leggere anche altro, tra cui narrativa, fumetto, qualsiasi altro, come dire, opera ibrida possa esistere tra fotografia, narrativa, poesia, qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Una, secondo me, degli strumenti è proprio riuscire a spiegare i meccanismi che ci fottono alla grande, non attraverso la saggistica, perché un saggio lo leggi, l'hai capito, però tra capirlo e interiorizzarlo c'è di mezzo, non so come dire, un mare incredibile. Spesso la narrativa, il fumetto hanno o appunto qualsiasi cosa di ibrido possa esistere in mezzo, hanno la capacità di farci vivere, comprendere i meccanismi che ci portano a risignificare e svuotare le parole che utilizziamo, il linguaggio che decidiamo di avere, perché agiscono ad altri livelli e possono in qualche modo, come dire, aprire spazi di discussione che a volte la saggistica non riesce a fare, no? Nel senso che capita spesso che magari pubblichi, non so, un saggio su decolonizzare, per dire, non so, Lo Sguardo, e la gente lo compra, ti dice brava, bravo, siamo tutti felici, ti stringi la mano, è andata, però poi realmente quella cosa come si riverbera nella realtà, come si riverbera nelle comunità che abbiamo intorno, come si riverbera nel nostro lavoro, come si riverbera negli spazi in cui portiamo i nostri libri, come si riverbera anche solo in libreria, no? Nel senso, magari trovi librerie bellissime che danno spazio alla decolonialità vissute da persone bianche. È triste, ma è vero. Quindi credo che uno degli step fondamentali sia riappropriarci delle parole, che in qualche modo, come dire, possiamo dire il potere, lo status quo, il mercato culturale, che purtroppo esiste e, come dire, è quello che in qualche modo detta determinate modalità di, appunto, svuotamento delle parole, è quello il modo in cui possiamo, come dire, ogni volta che si apre un pertugio infilarci dentro, no? Si apre uno spazzettino piccolissimo e tu ti ci infili dentro e in quel modo riesci a richiamare l'attenzione sulla concretezza di quella parola, sul vero significato, da dove nasce, come nasce, qual è la reale comunità o marginalità di riferimento e qual è il modo in cui possiamo essere veramente persone alleate di questa battaglia e farla nostra. Questo per fare un primo complessissimo. Mi sto un po' perdendo. Una delle altre pratiche che abbiamo provato a darci, oltre ovviamente a funzionamenti della redazione e collaborazione con le persone che scelgono di pubblicare con noi, di arricchire il nostro catalogo con la loro voce, con le loro idee, con la loro esperienza di vita, è scegliere insieme le strategie, che può sembrare una cosa in realtà banale, ma è in qualche modo fondamentale. Troppo facilmente si dà per scontato che determinati meccanismi dell'editoria siano la norma e che un libro debba girare e circolare in determinati modi, con un determinato tipo di, che ne so, comunicazione, stampa, social, solite cose. Mentre invece è importante, proprio per non dimenticarsi che determinate parole hanno un determinato senso, anche comprendere per ogni singola idea, per ogni singola storia a cui stai cercando di dare spazio e di creargli uno spazio in quello che è il mondo, fare tutta una serie di step insieme perché quel libro non sia poi in contraddizione con in realtà le strategie e le idee che porta dentro, no? Troppo spesso ci sono stati scandali nell'editoria, che ne so, libri antirazzisti spostati da persone che lavorano in logistica, perché, non so, il razzismo è una brutta storia, ma non per chi lo sposta quel libro in logistica o per chi lo stampa praticamente in condizioni di schiavitù, caporalato e via dicendo, insomma. Quindi è anche, come dire, importante ricordarsi sempre di non fomentare, almeno è chiaro che bisogna accettare delle contraddizioni, ma ricordarci di non fomentarle in qualche modo attraverso comportamenti scorretti che alla fine, come dire, vengono tollerati perché si è sempre fatto così. E questa è un'altra parentesi. E in ultimo, credo che una delle cose, almeno crediamo che una delle cose fondamentali sia proprio creare degli spazi di immaginario. Che detto così sembra banale, ovviamente, però forse non lo è, nel senso che proprio attraverso quello che non è soltanto saggistica, ma come dire, nei legami tra le varie storie che scegli di raccontare, siano esse appunto un saggio, un romanzo o un fumetto, puoi creare, far conoscere immaginari altri, ricordandoci di uscire, che secondo me è la cosa più importante, da quello che è la nostra comfort zone, no? Penso spesso chi compra libri resta nella propria comfort zone e spesso chi pubblica resta nella propria comfort zone. Per noi è fondamentale essere ovunque, contaminare, essere come erba selvatica che infesta qualsiasi punto libero ci sia, perché non ha senso fare libri se ce li leggiamo sempre solo tra di noi. E questo direi che è l'ultima cosa che dico. Grazie. Grazie. A chi passo la palla? Perfetto. Ciao a tutti, io sono Andrea di Eleutera. Allora, la domanda iniziale in realtà, come dire, faccio fatica a rispondere perché non ho una lista di parole o a cui facciamo particolarmente attenzione. Sicuramente, cioè, ci sono degli sguardi che non sono magari sulla parola, ma sono degli approcci che vengono sempre tenuti in considerazione. In alcuni casi è un caso su tutti, per esempio se si parla di carcere, stai attento a che ci sia un approccio abolizionista nel libro, e se non c'è è un problema e magari non selezioni, insomma non scegli di fare quel libro. Però ecco, non c'è un'attenzione specifica alle parole. Mi viene da dire, rispetto al linguaggio più in generale, un po' ripartendo anche da quello che diceva Matilde, che sicuramente come dire, mantenere la complessità e rompere i coglioni sono due cose che teniamo sempre in mente. Quindi quello che cerchiamo di fare quando guardiamo al panorama editoriale degli autori o dei libri, noi traduciamo tanto, quindi anche quando leggiamo libri in altre lingue, è quello di capire, uno, quello che dicevo all'inizio, quindi se l'approccio rientra in un discorso che è nostro e che in parte prescinde anche dall'attualità. La casa editrice ha tanti anni e ha alcune approcci definiti, e quindi esulano un po' dal discorso sul linguaggio specifico. Cioè, non so come dire, facciamo libri che fanno critica al principio gerarchico, critica al principio d'autorità, e quindi quello è uno sguardo che rimane da sempre. Sicuramente in questo caso c'è un'attenzione alle parole utilizzate all'interno di un testo. Dall'altro però quello che ci interessa è, appunto, ripeto quello che diceva Matilde, cioè che mantenere la complessità, che è una cosa che, come si diceva prima, nel dibattito culturale contemporaneo è praticamente assente, quindi ci sono polarizzazioni che annullano completamente l'approfondimento sui concetti, sul discorso, sulle questioni di cui si parla, e quindi uno sguardo è sempre quello, cercare libri e autori che siano autrici, che siano in grado di mantenere questo livello di approfondimento, di complessità, e che allo stesso tempo, anche qua, che non rimangano nella comfort zone, cioè, ma comfort zone che non è soltanto nei confronti, questo anche secondo me è importante, del mondo esterno, ma anche del mondo interno. Cioè bisogna dire le cose perché si discuta, si dibatta e si parli concretamente dei problemi, non che si scrive un libro dicendo le parole giuste perché appunto così dopo sono tutti contenti e ci stringiamo le mani. Ci interessa di più parlare delle cose spinose. Poi chiaramente ci sono nei libri tantissime casistiche a seconda dei temi, degli oggetti, anche i libri. Noi facciamo principalmente saggistica, ai noi, non solo, ogni tanto facciamo anche qualche fumetto. però ecco, l'attenzione sulle parole è quello. Mi viene da dire che appunto più sulle parole è uno sguardo sugli approcci che ci sono. E poi questa cosa di mantenere un po'... sempre, chiaramente poi c'è tutto da editore, mi viene da dire, un'attenzione anche a come che le cose che vengono, cioè a verificare le cose che vengono dette, cioè l'attenzione alle parole è più questa, che banalmente non è una questione solo politica e anche di serietà editoriale, che però anche questa spesso manca. Quindi fare attenzione alle parole e vuol dire anche questa cosa qui. Non ho molto altro da dire, magari dopo nel dibattito escono altre cose. Secondo me mantenere la complessità e rompere i coglioni sono i due sguardi più importanti nel momento in cui si guarda le parole, ecco. Ma velocemente, vabbè, mi presento, Tiziana Villani, Eterotopia, Mille Piani, bla bla. Due parole. Noi l'anno scorso proponemmo qui in questo centro l'edizione del Salone del Libro Politico che già si teneva a Parigi da molti anni. Ecco, quest'anno devo dire grazie a loro che se ne sono fatte carico, e quindi io non ho potuto seguire la démarche di tutto questo. Che dire sulle edizioni, il linguaggio e le parole? A mio avviso c'è una questione che andrebbe posta, che è la seguente. Si possono dire molte cose, si pubblicano molte cose, anche liberamente, apparentemente libere, che stanno in contenitori non liberi. Apparentemente, come dire, c'è un'apertura sul mercato a soggetti, narrazioni molteplici, dentro contenitori che non gliene frega niente di che cosa propongono. Questo è un primo problema. È un problema molto serio, che vuol dire che finché c'è una resa di mercato e poi anche di editoria a pagamento che regge questo meccanismo, funziona, altrimenti questo non funziona più. Quindi fare editoria indipendente è un altro modo. È una scelta etico-politica di posizionamento, anche nelle fonti e negli approvvigionamenti che si ricevono, anche nelle fonti di sostentamento, e quindi poi, come dire, alla resa siamo in Italia, insomma, in Italia in maniera molto democristiana tutto si tiene. Quindi, come dire, c'è una produzione larga, sono più i libri che escono che i lettori che leggono. Questo è il primo dato che dovrebbe dirci qualche cosa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è gente che ha bisogno di pubblicare, vuoi per motivi accademici, vuoi per motivi autoreferenziali, vuoi per motivi autopromozionali, che però non ha un esito. Ma questo non importa, perché dietro c'è tutto un apparato di costi, pagamenti, che regge un meccanismo farlocco. Quindi è una bolla, anche nell'editoria cosiddetta indipendente. E questo che cosa provoca? Che in un momento come questo, dove lo scontro sui linguaggi, sulle parole, non è solo uno scontro sulle parole e sui linguaggi, è uno scontro concreto sull'etica e le pratiche, sul modo in cui si sta di fronte a un progetto, come lo si assume e perché lo si fa, se no uno va a vendere panini e fa miglior cosa, e diventa una scelta di impegno molto ardua. Siamo in un momento di polverizzazione del sociale. Il che vuol dire che quando tu fai un libro, lo proponi, lo progetti, spesso lo progetti per te stesso e per un'autocelebrazione, no? E non hai idea se questo sia uno strumento per qualcuno in un contesto, in una comunità, perché quelle comunità sono largamente in crisi. Cosa significa? Che abbiamo bisogno di ricostruire quelle. Abbiamo bisogno di ricostruire le comunità di significazione dentro un contesto che dice assumiamo delle pratiche, dei comportamenti coerenti e non delle pratiche d'uso e di abuso. In questo ci sta, come dire, l'ambiguità di tutta questa bolla, che è una grossa bolla che ha i suoi perché, di interessi, finanziamenti, cavoli che volete voi, tanto li sappiamo più o meno, credo, tutti. Chiunque abbia a che fare con il mercato editoriale ne conosce il merchandising, nella sua complessità, nella sua varietà, nei suoi livelli. Allora, quello che io mi sono posta tenendo in piedi due realtà, una in Francia e una qui, e di mantenere queste navicelle le più possibili sgombre da questi opportunismi, le più possibili libere con gli autori che selezioniamo, le più possibili autonome, altrimenti vado a fare un altro mestiere. Grazie. Dopo questo bell'intervento, non so che dire, provo a allargare un po' lo spettro, perché secondo me non si capisce, a volte mi sembra che soprattutto noi editori, cioè non c'è cosa più come dire annoiante che parlare di editoria tra editori, secondo me. Scusa, sono Mattia di Momo Edizioni. E, nel senso che si perde a volte parlando, poi si entra nei tecnicismi di come sto mercato appunto in qualche modo non funziona, il monopolio, tutte quelle robe che sappiamo, i problemi distributivi eccetera, non si capisce più perché facciamo quello che facciamo, cioè a che cosa serve questo lavoro, che strumento è lo strumento del libro e se questo strumento del libro è uno strumento ancora vivo oppure no. Perché io penso bisogna anche liberarsi del feticismo verso soggetto, cioè a me non me ne frega un cazzo se di tenere in vita i libri perché so fatti di carta, mi interessa che questo strumento serva a qualcosa, sia uno strumento, ciao Sergio, effettivamente utile a qualcuno per liberarsi, per prendere coscienza, per divertirsi, per quello che ci pare, ma io cerco il libro, come diceva Feltrinelli, che fa qualcosa a chi lo legge, che mette le mani addosso di chi ce l'ha davanti. E Feltrinelli aveva un'idea di lavoro culturale, che era un tipo di lavoro indipendente, ma non indipendente come la dicitura di mercato dà agli editori, ma indipendente con aggettivi qualificativi intorno, e quindi di parte, e quindi di classe, e quindi anche libera dalle dinamiche, per esempio, di partito, dentro il quale lui stava all'inizio, e poi si libera appunto anche da quello, ma perché la storia della sua casa editrice era una storia, diciamo, indipendente da questo punto di vista. I problemi, cioè bisognava, hai ragione, rompere il cazzo, perché il dottor Zivago fa questo, rompe il cazzo, cioè dice al Partito Comunista, noi comunisti, se vogliamo portare avanti sta roba, dobbiamo partire da ciò che non ha funzionato, evidentemente, dentro a quell'esperienza. Per quello pubblica il dottor Zivago, da un gesto di indipendenza, per questo viene poi estremista, vabbè, la sua storia è la sua storia. Ma secondo me oggi noi dobbiamo ragionare a che cosa serve questo lavoro culturale in tutti i campi, perché può essere anche la musica, il cinema, tutti questi elementi, tutti questi gesti culturali lasciano un segno, e non esiste una forma neutra di lavoro culturale, non esiste un salone neutro, il salone di Torino non è neutro affatto, ci hanno detto così per tanto tempo, poi a un certo punto era diventato l'argine ai fascismi, perché Nicola La Gioia diceva questo. Ma non era affatto, non lo era sicuramente, non, o quantomeno non mi pare che l'abbia arginati, anzi gli ha dato pure spazio quando poteva, perché adesso è diventato che la democrazia è quel posto dove anche i nazisti devono poter parlare, e quindi il lavoro culturale fondamentalmente si svuota di senso, e ce lo ridanno forse proprio i nazisti stessi, cioè questi, chi sta al governo, le destre, che in qualche modo risignificano la parola culturale, perché decidono che vogliono fare egemonia culturale loro adesso, una controegemonia che stanno a tutti gli effetti facendo. A proposito di linguaggio e di parole, Trump, si è parlato molto del linguaggio di Trump e del fatto che il suo linguaggio è come quello, hanno detto, di un bambino di 5 anni, però sto linguaggio di Trump fa qualcosa in più in termini appunto di egemonia forse culturale anche in Europa, tanto che altre persone che lavorano con le parole, appunto Kirk questi giorni, no? Non so se vi è capitato, spero di no, io purtroppo sono malato, mi sono andato a vedere le cose sue, il modo in cui utilizzava il linguaggio lui, a che cosa serviva all'interno di un meccanismo di propaganda, eccetera, la violenza di quel linguaggio lì. E mi chiedo come bisogna rispondere a una roba del genere che assume tratti, diciamo, preoccupanti su, quantomeno su tutta l'Europa, più gli Stati Uniti, e dall'altra parte non vedo in che maniera, insomma, noi ci organizziamo per fare questo. Prima sono uscite altre, si è parlato per esempio, no, del linguaggio inclusivo, un tema che, come dire, ha attraversato, attraversa ancora tutto il nostro ambito, tantissimo, ogni volta che arriva un autore, un'autrice è un problema, diciamo, ma questo in generale perché ormai gli autori sappiamo che sono i nostri nemici, non i nostri, sto scherzando, però evidentemente si pone ogni volta una questione, ogni volta che c'è un libro di mezzo, quindi bisogna scrivere qualcosa. E io ultimamente ragiono sul linguaggio, diciamo, inclusivo anche dal punto di vista di classe, perché a volte mi sembra che si perda questa roba qui dentro questi meccanismi, e quindi anche gli eventi che noi facciamo, i momenti di dibattito eccetera, assumono dei linguaggi che effettivamente sono per chi li capisce, per chi già all'interno di quella bolla, appunto, di come vogliamo chiamarla, difficilmente gli spazi che creiamo sono spazi dove chiunque può sentirsi a suo agio o quantomeno può capire di cosa stiamo parlando. L'altro giorno con Marco Filopat presentavamo un libro e raccontavo di quando andavo all'università, cercavo di partecipare ai collettivi di lettere e filosofia, e arrivavo a un certo punto in cui per me, se si parlava un'altra lingua, mi ricordo perfettamente dei giorni in cui si parlava tanto di quello che aveva scritto quel giorno Toni Negri, per esempio, no? Per me è rimasto un mistero, nel senso che nel tempo, anche confrontandomi direttamente con lui, chiedendo ma che cazzo vuol dire questa frase, te la spiegava e non si capiva ancora. Ora, al di là del fatto che lui potesse avere, secondo me, nel senso dell'analisi che faceva e quindi del contenuto in sé, sicuramente come dire, qualcosa di fortemente interessante, utile, eccetera, però il tema di tradurre, che non spettava a lui nello specifico, ma a noi magari che invece facciamo politica, è rimasto. Cioè noi dovevamo tradurre effettivamente per rendere comprensibile e commestibile quel contenuto là. E secondo me il lavoro nostro spesso è questa roba qui. Io mi sono confrontato con la saggistica per tanti anni e mi rendevo conto che spesso era molto autoreferenziale, si scriveva all'interno di quel meccanismo accademico che riproduceva, che va benissimo perché serve alla ricerca, alla scienza e tutto il resto, ma mancava poi la traduzione in qualche modo, rendere questa roba comprensibile, a meno che non si fa una scelta, diciamo, sperimentale di altro tipo. A me in questa fase qua penso mi interessa molto chi invece si fa domande perché non ce l'ho una risposta. Ovviamente quello che noi facciamo con la nostra produzione, con i festival, adesso facciamo un festival al Quarticciolo che è un quartiere particolarmente problematico, un'epidemia di crack eccetera, dove l'ultima cosa che serve forse sono proprio i libri, però facciamo sta roba di portarcela un po' pensando al fatto che non so, faccio un esempio, negli anni, fine anni 70-80, il teatro si domandava come fare per il fatto che la gente non andava più a teatro, no? E a un certo punto hanno preso e sono andati loro nelle piazze, portando il teatro d'avanguardia, che è una roba che non è che proprio si capisce al volo. Però la scelta è interessante, cioè quella di dire se non sei te, avvieni a teatro, vengo io da te. E mi metto anche a disposizione di critiche, di attacchi, di non essere capito, mi metto però in una dinamica, diciamo, di dialogo, quantomeno. Secondo me un po' questa roba qua, oggi tutto il mondo della cultura, quindi non soltanto gli editori che devono ragionare non solo in termini delle librerie, anche perché sappiamo che le librerie sono un altro parassita, diciamo, per noi, che ci spella tutti i giorni, a cui vogliamo benissimo, le amiamo le librerie, però le odiamo allo stesso tempo perché non pagano mai. Dopodiché evidentemente la cultura non può stare solo là dentro, non dobbiamo essere fissati col fatto che lì dentro ci debba rientrare per forza, sì, ci deve stare, ma dobbiamo secondo me ragionare al di fuori. La stessa cosa deve fare il restante mondo della cultura, quindi chi produce musica, chi fa film eccetera, secondo me è interessante se riusciamo a farlo scendere su un piano per cui si devono confrontare con l'esistente, parlare dell'esistente, scontrarsi e decidere che comunque sia oggi, in questo momento, fa cultura vuol dire fare conflitto e quindi prende una posizione. Salve a tutte e tutti e tutto, io sono Emanuele di Editore e mi sento un po' defraudato degli interventi perché vanno la collega Tiziana e il collega e compagno Mattia, ma diciamo sono sovrapposti alcuni dei concetti che volevo esprimere qui, perché parto da questo punto, proprio da Toni Negri, così facciamo contento. Vabbè, no, però io ne parlo bene adesso, ne parlo bene, perché a un certo punto lui dice... No, io ce l'ho con lui, però diciamo in questo caso no. A un certo punto lui dice, nella trilogia d'Impero, che non è fantascienza, però esatto, dice, bisogna rimanere alla superficie, no? Quando lui parte a quello che dovremmo fare, cioè dobbiamo tornare alla superficie, perché a fondo di scavare prima o poi emergono i contrasti, perché prima o poi, anche se io e te siamo d'accordo al 99,8%, prima o poi, a forza di scavare, a forza di costruirci, a forza di andare a fondo, troveremo l'elemento in cui ci stiamo sul cazzo. E qual è la conseguenza della nostra balcanizzazione? Ora, io ho avuto la fortuna di avere un mentore, Riccardo Campa, che mi ha sempre detto che lo strumento di chi fa cultura sono le parole. Però queste, a me sembra che stiamo sempre di più negli ultimi 15 anni invertendo la questione, cioè nel senso, è la cultura lo strumento delle parole. E, ho anche la fortuna di essere molto a contatto con la cultura, con la comunità araba e musulmana di Roma. E una cosa che mi colpisce, con cui abbiamo un collettivo di persone musulmane e anarchiche, soprattutto molto giovani, è il fatto che molti di loro parlano malissimo italiano. Alcuni parlano malissimo proprio l'inglese. Sono magari arrivati da poco, sanno di essere di sinistra e vogliono trovare il modo di scendere a patti con la loro fede, la loro cultura e la loro fede politica. La cosa che io ho trovato sempre molto stimolante è riuscire a dover semplificare, anche lasciandoli grezzi, concetti che per noi vanno detti solo e soltanto in un certo modo. Il fatto è che le parole non sono più uno strumento, le parole sono il nostro limite con cui noi sbattiamo la testa contro il muro della nostra incomprensibilità. Parliamoci chiaro, fuori da ste mura ci piano per il culo per come parliamo, ma è giusto che sia così, perché siamo ridicoli. A volte lo stesso concetto, che spesso è molto semplice, lo dobbiamo affrontare in una maniera astratta e buffa, perché quello è diventato il modo coerente di dirlo in spazi come questi. E con questo non è una critica a questo tipo di spazio, io attraverso, cioè, anzi, la questione però è, perché noi siamo diventati così respingenti? Noi eravamo il popolo, perché ci dobbiamo arroccare? Perché siamo passati così tanto alla difensiva? Forse il problema è che il linguaggio è l'unica parola, è l'unica battaglia che noi ci illudiamo di poter vincere, ma l'abbiamo persa in partenza. La battaglia per il linguaggio è persa in partenza, perché il linguaggio non si fa con lo 0,001% della popolazione. Il linguaggio è uno strumento, non deve essere il fine. Poi chiaramente c'è l'umana decenza, quindi se una persona vive il proprio corpo in una maniera non binaria, non gli vado a dire per fargli un dispetto, ma non gli vado a usare il maschile o il femminile per fargli un dispetto, rispetto la sua scelta. Però quello è un rapporto tra individui, un rapporto tra persone, tra esseri umani. Siamo fatti di carne. C'è un mio carissimo amico che ormai sta in Italia da 30 anni, quindi lui parla bene l'italiano. Lui mi prende per il culo per come parlo a volte, no? È maliano, anarchico, e quando lo deve spiegare, magari parlando in arabo, traducendo i miei concetti, non soltanto a livello di concetto, ma proprio a livello semantico, è chiaro che mi stanno prendendo in giro, è chiaro che li ridono, chiaramente è goliardico, è tra di noi, ci sta, no? Cioè, nel senso, tra amici ci si piace un po' per il culo. Però ecco, mi sembra che, e questo lo dico completamente contro i miei nostri interessi, perché noi facciamo libri, noi siamo i mattoni che noi usiamo per costruire questi edifici di carta, sono proprio le parole. E però sono diventate il nostro più grande nemico. Sono diventate il muro contro cui noi sbattiamo e continuiamo a fare insistentemente lo stesso errore. Prima Matti citava Kirk e Trump. Kirk e Trump hanno dietro degli think tank, degli spin doctor, hanno eserciti di copywriter che gli fanno pesare parola per parola. Noi che con le parole ci lavoriamo non riusciamo a farci capire da nostra madre. Questo è il punto. No, perché così, ma la lancio lì come provocazione. 30 anni di ignoranza diffusa hanno prodotto il loro esito. Siamo un popolo, siamo ignoranti e quindi incapaci di poter elaborare il linguaggio. Ma cos'è il linguaggio? È il pensiero. Il pensiero più si nutre di linguaggio, di articolazione della lingua, più è vivo. È questo che ci è stato sottratto. Non batteremo mai le destre, mai, sul terreno della volgarizzazione, perché questo è il loro obiettivo. Bisogna che su questo si sia chiari, perché è lì che c'è lo scontro. Lo scontro è sull'annientamento dei saperi e della capacità critica che passa dal linguaggio e la sua volgarizzazione. Se noi non articoliamo più il linguaggio, non siamo più capaci di pensiero. È una battaglia tremenda che è stata messa in campo dagli anni Ottanta, come dicevi giustamente tu, altro che spin, lì ci sono squadre che buttano alla pancia di Vaccari, e basta adesso, bisogna anche dirle le cose come sono, incapaci, volontariamente incapaci, di pensare altrimenti, perché si rifugiano nei quattro pensieri dell'orto domestico, che è rassicurante. Il pensiero è un'altra cosa. Ce l'ha insegnata tutta la generazione che negli anni 30 scompare e va in fuga, annientata su questo, annientata, tra cui Benjamin e quant'altro. Io su questo sinceramente sento che bisogna fare battaglia, fare conflitto. Noi vogliamo la nostra capacità di pensare, e pensare passa da un linguaggio ricco. Noi apriremmo, questa vuole essere una tavola rotonda in tutti i sensi, non solo nel suo tavolino tondo che abbiamo messo al suo centro, quindi apriremmo il dibattito a domande, spunti, ulteriori riflessioni. Chiedo a chiunque voglia fare una domanda di venire a farla col microfono, perché registriamo e quindi altrimenti non si sente nulla. Sì, no, allora io anche mi presento, sono Chiara, e sono una professoressa, insegno lettere, per cui il linguaggio mi appartiene particolarmente. E adesso non pensavo di fare questo intervento così, insomma, generale, però un po' comprendo il discorso della non volgarizzazione e della forte lotta contro questa volgarizzazione davvero, davvero diffusa. Ma non condivido il fatto che il linguaggio debba essere elitario, cioè, e ahimè purtroppo a volte... No, ma infatti te non dicevi questo, però è importante spiegare che il linguaggio a volte deve essere calibrato rispetto a, alle persone che sono in grado di comprendere alcuni tipi di linguaggi, e purtroppo le destre ci hanno battuto su questo, no? Perché le destre hanno trovato un modo di parlare al popolo in una maniera talmente popolare, talmente che noi evidentemente non siamo riusciti a farlo, e questo è un primo dato che secondo me deve essere essenziale. Poi io sono appassionata di linguaggio, sono laureata in linguistica, e questo titolo, no, di questa conferenza quest'oggi mi ha davvero interessato. Sono qua fondamentalmente davvero solo per il titolo, no? L'utopia delle parole, come poter, e ci sono venuta anche per capire come posso, no, nel mio lavoro poter cercare di creare un linguaggio che possa essere comprensibile alle persone con cui mi rapporto, un linguaggio politico, ma un linguaggio che parta dal presente, dall'attualità, dalla vita, da ciò che invece poi accarezza gli strati più deboli, no? Nella totalità. Anche in questo mio discorso sto facendo un discorso per pochi, no? E anche in questo interroghiamoci, cioè anche nella scelta che io faccio ogni anno dei libri da dare ai miei alunni, è un percorso complesso, perché cosa scelgo? Che libro scelgo da leggere insieme a loro? Come lo leggo insieme a loro? Quali parole ha questo libro che possono effettivamente arrivare insieme a loro. E che possono arrivare a loro, no? Poi ovviamente tutto è estremamente relativo e nella relativizzazione crediamo tutti. Però l'editoria politica in questi anni, secondo me, che è estremamente interessante, anzi forse più di anni passati, però diciamo non coglie questo lato, no? Il lato un po' più potabile. Non so se sono stata chiara. Volevo interagire. Prova. Vado? Allora, io due cose. Primo, sono d'accordo con te, perché una questione è parlare del fatto che il linguaggio debba essere ricco e connesso al sapere. Io sono d'accordissimo. Che vuol dire essenzialmente che non bisogna, cioè, allora, se in Ungheria, per esempio, la destra è riuscita a diffondere l'idea che se sei di sinistra sei un pedofilo, non bisogna fare la stessa cosa, cioè al contrario. Io sono d'accordo che non è questo il nostro lavoro. Noi dobbiamo continuare a problematizzare e arricchire il linguaggio. Dopodiché c'è un problema di registro, cioè, che è questo il punto. Quale registro uso a seconda della situazione in cui sto? C'è la situazione convegnistica, scientifica, eccetera, e c'è la situazione di strada, c'è la situazione di scuola, cioè, e questo bisogna essere in grado di avere registri diversi, cioè capire che è lì l'accessibilità. Cioè, l'idea dei libri per bambini, per esempio, dei fumetti, cioè chiedere anche a degli autori che a volte non si sono mai confrontati con roba per bambini, di fare una roba per bambini e bambine, vuol dire mettersi su un piano in cui tu quel sapere lo maneggi così bene che lo riesci a spiegare in maniera semplice. E non vuol dire non problematizzare le cose, vuol dire parlare di cose difficili in maniera semplice. Però aspetta, mi era appuntata una cosa e mo' mi sono scordato. Non la collerei però solo al linguaggio, cioè non accolliamo tutto al linguaggio. Cioè ci sono dei problemi che sono problemi, secondo me, concreti, materiali. E i problemi, il problema, diciamo, del fatto che la destra prende spazio non è legato solo al linguaggio. Il linguaggio fa la sua parte nell'egemonia culturale, ma i problemi sono concreti, reali, materiali. E il problema è che la sinistra, evidentemente, su quelli è veramente carente, non ha una proposta, non ha una strategia, non ha un'organizzazione. Quindi quello che manca poi in realtà, secondo me, dal punto di vista, diciamo, di classe, è proprio un'organizzazione. Dal punto di vista culturale, in Italia in particolare, che è il posto che conosco meglio da questo punto di vista, mentre non so in giro, ma quello che registriamo è che evidentemente la cultura per tanti anni ha avuto a che fare con rappresentare una classe che non era dalla parte dei subalterni. Quindi ha portato con sé, ha introiettato un certo classismo. E quando invece cerca di ripulirsi dicendo vogliamo fare linguaggio inclusivo, ma fondamentalmente nel concreto non cambiando nulla di quel sistema, stiamo giocando. Nel momento in cui chi lavora nell'ambito culturale in Italia ha sempre soltanto gestito i posizionamenti, i Nicola La Gioia, che abbiamo già citato prima, si occupa molto attentamente del proprio posizionamento nell'ambito culturale, ma sta molto attento a non pestare mai a chi non deve pestarli. Cioè manca un aspetto, diciamo, direttamente conflittuale, che si accolla anche, evidentemente, de perde una posizione in un ambito di potere, che però per esercitarla in qualche modo deve confermare l'esistente. Cioè, oggi la destra ce l'ha il pallino della cultura, ce l'ha perché c'è anche, come dire, c'è mai riuscita, c'è anche, come si dice, quando non ci riesce a fare una cosa, insomma, non mi viene la parola, però c'ha, no, direi il fatto che sono ignorante, c'ha la come si dice, mi viene, me la scordo sempre, vabbè, comunque c'ha sta cosa che non ce la fa, e la frustrazione sicuramente, sì, a proposito delle parole, poi c'è una proprio che non mi viene. Però ecco, su quello sta facendo un investimento, sta facendo evidentemente, come dire, prende Tolkien, fa altre operazioni che secondo me fanno più che altro ride, non le vedo come una cosa preoccupante se non sul lungo andare, ma si sta imponendo invece su un piano della comunicazione e su del potere, della comunicazione su cui... Vai. No, no, no, va bene, è un dibattito. Perdonami, no, no, odio quando mi interrompono, quindi perdonami se ti interrompo a te. Però sono ipocrita, quindi lo faccio uguale. Allora, su questa cosa in realtà è strapericoloso. Noi dobbiamo smetterla di dire due cose. Quelli di destra sono ignoranti, quelli di destra sono stupidi, e due, quelli di destra non ci riescono. Perché quelli di destra ci hanno fatto un culo così. Leggetevi La dozzina del premio Strega, sono tutti libri ben educati, ben confermati, in cui si parla magari di questa o quella minoranza, di questa o quella categoria oppressa, all'interno di un framework però come quello dice Matteo, cioè di Mattia, che è quello della borghesia. Io non so un libro di sinistra che si adotta lo Strega, non me ne ricordo uno. Però io, cioè, nel senso, accordiamoci sul significato di sinistra e destra, perché oggi in Italia Chiara Valerio è considerata di sinistra, quindi, cioè, dipende pure che intendiamo urlo con sinistra e destra, perché se diciamo, comunque no, il punto è che in realtà l'egemonia della destra è già qui, non è che stanno a provare a fare l'egemonia della destra, l'egemonia la destra ce l'ha, il frame in cui noi ci confrontiamo a livello semantico di linguaggio, come prima diceva lei, sono tutti di destra a livello di comunicazione pubblica, non di quello che ci diciamo qua dentro. Qua dentro rappresentiamo una percentuale di popolazione insignificante. Il nostro impatto non è significativo nel reale, finché siamo qua tra noi. Quello che diceva lei all'inizio è giustissimo. Sul fantasy, sulla letteratura fantastica, noi facciamo un festival, che è il primo festival in Italia di letteratura fantastica, si chiama Oblivion. Cioè non è il primo, nel senso il più grande, che chiaramente organizzandolo noi gli abbiamo dato un frame libertario, però dato che noi conosciamo i nostri polli, cioè la gente che legge quella roba, noi non potevamo fare i panel per esempio l'horror femminista perché andavano vuoti o ci avevano a cazzotti, però noi potevamo giocare appunto sul linguaggio come prima, quindi erano tutti panel libertari, cioè ci stavano anche panel apertamente anticoloniali, ci stavano autrici e autori un po' da tutto il mondo. Il risultato qual era? Che semplicemente cambiando le parole, semplicemente non usando le parole nostre, i nostri concetti sì, ma le parole che qualunque fesso o fessa avrebbe compreso, e mi ci metto anch'io, insomma, che anch'io sono fesso. Sì, no, ma arrivo. Cioè, nel senso, la media della partecipazione ogni panel era di 100 auditrici e auditori. Quindi vuol dire che su 20 panel 2000 persone hanno sentito le fesserie che abbiamo portato. E questo è stata la conferma pragmatica, empirica, di un sospetto che ho da sempre, che semplicemente non solo noi abbiamo reso odiose delle parole, che invece portano dei significati positivi. D'altra parte siamo stati noi in grado di rendere noioso scopare, drogarsi, divertirsi e sentire la musica, non loro. Quindi l'egemonia culturale siamo noi ad avergliela consegnata in mano, arroccandoci sempre di più. Purtroppo, cioè loro non è vero che loro sto tentativo non gli riesce. L'egemonia culturale è già presa, non è che ci stanno a provare. Ah, io volevo ricordare due cose che sono già state dette, ma che secondo me sono centrali. Vabbè, intanto a me personalmente non interessa essere egemonico e quindi non mi interessa diventare, come dire, scendere su questo piano, anche come si diceva prima. Mi interessa molto di più quello che si diceva, che è uscito già, ripeto, da prima, la comunità e stare in mezzo alla gente. Cioè, il linguaggio e le parole sono importanti, ma poi la complessità di cui ho parlato malamente prima, qualcuno l'ha detto anche meglio, non è... deve essere difficile, allora, cioè complesso non vuol dire difficile, complesso vuol dire anche una relazione con una persona senza parole può essere complessa perché è fatta da tante sfaccettature. Allora i libri e le parole sono, cioè secondo me le discussioni interessanti sono complesse, i libri sono complessi quando sono così, cioè quando entrano un po' nel merito e tengono conto di tutte le possibili sfaccettature. Queste sfaccettature e il significato che sta dietro le parole può essere capito se c'è una comunità che discute dei libri e delle parole che vengono usate nei libri, perché magari io leggo una parola e penso una roba, lei legge la stessa parola e ne penso un'altra, ne parliamo, litighiamo, ci confrontiamo, eccetera eccetera, e da quella cosa lì esce tutto quello che stavamo dicendo, cioè una maggiore consapevolezza, la capacità di far fronte ad altri linguaggi, eccetera eccetera. Quindi non è soltanto una mancanza di parole, ma appunto, come è stato detto in interventi precedenti, c'è secondo me una grande mancanza di comunità, che non è solo la nostra comunità, è la comunità in cui viviamo, cioè andare al bar e parlare anche con quello che non la pensa come te del libro, che io lo faccio, magari esco dalla redazione, vado al bar a bermi il Campari col bianco, a pranzo so che il barista non è proprio del mio orientamento politico, però ogni tanto gli butto lì la roba, gli butto lì una cosa che ho appena letto, su cui ho appena lavorato, magari collegandolo a un argomento di attualità, e vedo che reazione ha, e come si diceva prima, cerco di capire se mi capisce. Poi io cerco di mantenere le mie parole e di arricchirle, di renderle più, come dire, comprensibili con questo confronto, ma se non c'è questo confronto è inutile anche il lavoro editoriale che ci sta dietro, perché noi alla fine non è che siamo one man show, cioè siamo degli editori, non è che facciamo tutto, poi sì, ci dobbiamo reinventare, giustamente fare i festival e fare gli eventi, ma il nostro lavoro sta soprattutto nel fare i libri. Poi questi libri spettano non soltanto a noi e anche appunto agli altri, alla comunità, bisogna discuterli, bisogna parlarne, bisogna fare tutte queste cose. No, velocemente, ma io credo che dobbiamo fare chiarezza su un piano. Un conto è la comunicazione, un conto è il linguaggio, un conto è il sapere. Il primo piano differenza che va posto e va chiarito, che la comunicazione è un medium che viaggia attraverso dei canali, dei mezzi e delle strategie potentissime, e che puntano non solo sulla semplificazione, ma puntano più sull'immagine che sulla parola, insomma qui sarebbe lungo entrare nel merito, no? Quindi quello è un campo dove ovviamente tutta un'area è stata perdente, perché? Perché portava saperi complessi, saperi articolati. Ora, io che ho fatto l'insegnante per una cifra d'anni, quando a dei ragazzi si insegna un qualche cosa, gli si insegna la difficoltà di capire quel termine, quella parola, perché per lui è un bagaglio, è una fatica, ma che si deve fare, facendoli capire che se non fa quel passaggio è come se io volessi parlare in cinese e non studio il cinese. Cioè, finiamola lì, non si arriva al sapere senza la fatica di misurarsi con il sapere, non arriva in pillole. È come se uno volesse fare l'ingegnere e dice: io mi invento quel ponte, poi non sai con quale tecnica costruirlo, abbiate pazienza. Ma questo è stato fatto, questa è la vulgata che il primo dei cretini che passano con una logica assolutamente bovara, io veramente sono stufa del bagno di pochezza nel quale siamo immersi, poi discetta però e decide in nome di un popolo, anche questa nozione che vabbè sarebbe, ci vorrebbe un altro incontro, un altro seminario, no, non ho tutta questa fiducia nelle masse, ma insomma, detto questo, che cosa significa? Che lo strumento del sapere, del linguaggio, della ricerca e della parola è quello che, caspita, diceva prima anche qui, sapere e potere, no? Cioè usiamoli sti saperi per un motivo molto concreto, non astratto. Se io so, mi difendo, se io so, decodifico, se io so, capisco, poi devo rendermi accessibile, sì, ma non posso semplificare fino oltre, perché non c'è possibilità. C'è lo sforzo, ma quello sforzo è salute. È salute. Fare lo sforzo di capire, allenare il cervello ormai marcescente, fa bene, se no tutti cerebrolesi e stiamo contenti. No, allora, sulla comunicazione invece insisterei, perché noi siamo immersi, ma non da mo', da decenni e decenni, e poi dovrei riprendere già Debord che l'aveva vista molto lunga, in un regime in cui la comunicazione ha dominato non solo le forme della relazione, ma dell'immaginario, della capacità di essere nel sociale, nel comune e nel fare comunità. Quindi noi queste cose alla fine un po' le sappiamo, siamo sotto uno scacco, ma perché? Perché siamo in un'onda estremamente pesante, distruttiva, che ci chiede di adeguarci. Non ci chiede altro, eh? O sei qui o sei lì. Non c'è possibilità. Se appena osi elaborare un minimo di analisi su quello che è accaduto, vedi, negli Stati Uniti, no, non è permesso, ma guarda caso. Cioè, ma voglio dire, sappiamo in che momento storico siamo, oppure siamo nell'empireo mondo altrove? Il buon Goffredo Fofi avrebbe detto da pochi a pochi. Allora, io prova, ok? Allora, assolutamente sì, lentamente, con calma, senza fretta, però inderogabilmente ci accompagnerei alla fine di questa prima tavola rotonda. Aspetta un attimo, quindi un intervento degli editori va benissimo e poi magari ne possiamo raccogliere un ultimo del pubblico. E scusa, magari chiederei se c'è qualcuno che non ha o qualcuna che non ha parlato. Possiamo dare la... Va bene. Brevissima. Di quello che hai detto da insegnante la riconosco molto, però tu stai parlando di alunni che hanno degli strumenti e delle basi davvero già strutturate, e quindi insegnare degli alunni che magari fanno il liceo classico o qualcosa di simile come superare la difficoltà della parola è molto semplice. Invece insegnare, no, così so, non sto entrando nel personale, sto entrando rispetto a quello che tu hai detto, no? Quello che tu fai non so e non mi interessa, cioè, nel senso, mi interessa quando ci andiamo a prendere una birra al bar, non ora. Ora il mio intervento è relativo a quello che tu hai detto, cioè, no, l'ostacolo è sempre un problema rispetto al fatto che dover abbassare così tanto il livello della parola o del linguaggio è un problema. No, non è un problema, perché quando ti rapporti a delle persone che questo linguaggio non lo comprendono, è un problema. Ed è un problema parlare con un codice comunicativo che non è comprensibile, e questo, secondo me, è il grandissimo problema della sinistra. Se di sinistra stiamo parlando o se di editoria di un certo genere stiamo parlando. Prego. Io dico una cosa, mi scuso perché abbasserò tantissimo il livello della discussione, forse siamo un po' pancabestia in quanto torinesi. Non lo so, noi abbiamo forse sempre visto quello che facciamo comunque con qualcosa di controculturale, quindi forse partiamo, come dire, quando saremo di maggioranza vedremo il sol dell'avvenire, scegliete voi quale, mettiamola così. Per il resto, forse banalmente, se sei controcultura, in qualche modo dal basso cerchi di contaminare il resto, ma in qualche modo sei forse, come dire, minoranza, almeno a livello di persone. Poi le idee girano, si fanno strada, quello è un altro discorso. Noi facciamo anche fumetti, secondo me questa cosa è una cosa molto importante, ci tengo a dirla, per questo mi volevo inserire adesso. Noi abbiamo fumetti senza parole, cioè proprio tagliamo la testa al toro, dice sì. Quando tu vedi a un banchetto in città, un festival ufficiale dove portano le scuole che scadano annoiarsi, insomma in qualsiasi ambito, certi libri, e vedi un ragazzino, una ragazzetta di 14-15 anni aprire un libro e chiaramente in quell'istante gli sta esplodendo il cervello, quella è un'altra cosa. Nel senso, sì, possiamo fare appunto tutti i discorsi più alti sul linguaggio, sull'educazione, su come trasmettere determinate cose, però secondo me esiste anche un livello base per cui una delle difficoltà è proprio riuscire a raggiungere persone che stanno cercando delle cose e non le trovano, perché poi forse il mondo di oggi è molto dispersivo e quando le trovano in realtà non le mollano, non so come dire, cioè ci si approcciano a un livello di pancia, a un livello più istintivo, per cui quella cosa non l'avevi mai vista, non pensavi neanche che fosse possibile, non pensavi neanche che ci potesse stare in un libro, però la vedi, ti piace, la vuoi e ci entri dentro. E poi da lì puoi fare tutti gli altri step che vuoi, non per forza appunto arrivare a saggi di 500 pagine e via dicendo. Però probabilmente, secondo me, per iniziare anche solo affidarsi ad un livello diverso, utilizzando altri linguaggi, perché di linguaggio non ce n'è solo uno, è già, come dire, da vedere quando succede, ti rendi conto che ci sono tante altre strade che forse anche un po' per deformazione nostra non vediamo, perché siamo molto in fissa con le parole, con una determinata lingua, con un determinato sguardo coloniale, per cui la lingua deve essere una sola e via dicendo. Questo è quanto. La prima cosa che dico, visto che non sono più in grado di fare interventi dopo tanto che non li faccio, ma non potevo non dar ragione a come ha aperto la compagna qui di Eris, di Eris Edizioni, che fondamentalmente il fatto che troppi saggi, ma la narrativa o la fiction hanno detto cose molto prima dei saggi, ossia l'attentato a Trump e Stephen King con la zona morta, da mo che ce l'aveva raccontato 40 anni prima. Siamo noi che siamo a legge troppo appresso, non solo attori negri, l'altro sono messi tutti a ride, ma non è che i vostri maestri siano diversi da toni negri, no, forse non si capisce un cazzo di nessuno di loro, scusate il termine cazzo, però non si capisce. Il problema è che, tra l'altro, che questa, perciò la seconda guerra civile americana, che ricadrà su tutto l'Occidente morente in corso oggi, beh, quella in un filmaccio veramente da due soldi, Gio Dante l'aveva già anticipato, e qualche anno fa uno dei nostri maggiori aperaisti, l'amico Sandro Portelli, in una trasmissione di noi sulla radio del Forte, subito dopo l'omicidio Floyd e i Proud Boy e i traditori bianchi, perché ormai il linguaggio serve semplice a permettere l'oscillazione del nostro proletario, non del nostro essere middle class, pure se siamo nati in borgata, perché il nostro linguaggio da compagni, oggi come oggi, è molto middle class, non serve a un cazzo, non serve. Allora, se vogliamo che il mostro proletario si sposti dai Brown Boy alla John Brown Army, noi dobbiamo parlare, ma non come mangiano loro, come senti qua una volta, forse era Primo Moroni, ma per sbaglio stavo strafatto nel cortile come al solito e sento dire, quando ci sono i scazzi, le differenze, ma come fai a riuscire a conciliare tutte le varie posizioni che scazzano? Perché non serve un traduttore a noi compagni, ci serve un interprete. E questa cosa, se qualcuno si legge, visto che prima della saggistica arriva sempre la fiction, se vi leggete Embassy Town di China Melville, capirete che per mandare, quando arrivano gli umani e serve sfruttare economicamente, commercialmente, anzi a livello estrattivo, un pianeta lontano in una galassia lontanissima, non c'è il traduttore, c'è un interprete, ma non linguistico, per similitudine. Io chiuderei qui, ma solo momentaneamente, questo confronto, invitandoci tutte e tutti a continuarlo in cortile davanti a una birra. Facciamo una piccola pausa di mezz'oretta, perché poi alle 18 riprendiamo con la seconda tavola rotonda, in cui c'è un'altra sfida, cioè quella di passare dalle parole ai fatti e quindi chiederci in che modo l'editoria può essere una proposta militante politica. Quindi tenetevi in caldo le vostre riflessioni, facciamo un giro, ci beviamo una cosa e ci ritroviamo qui tra pochissimo. Grazie.